télévision. Carissimi amici di Iceberg News, un libidinoso, un peccaminoso. Focoso! L'hai fatta! L'hai fatta la rima con oso, finalmente. Alleghe! Da Paolo Travagnin. E Marino Midena. E ripartiamo, eccoci qua. Ripartiamo immediatamente con una nuovissima puntata di Iceberg News. Iceberg News, contatto telefonico 339 39 90 836 per essere con noi anche al telefono, al sms, mms, ciò che volete. Per quanto riguarda il contatto telematico, info@icebergnews.it, mentre per quanto riguarda il contatto proprio sito web, www.icebergnews.it, naturalmente dove contattarci, dove vedere dove i nostri moltiplicati mezzi di visibilità. Naturalmente il vostro materiale lo potete inviare all'attenzione di Paolo Travagnin via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma. State facendo veramente un bel lavoro, perché mi arriva parecchio materiale, dai corti, videoclip, materiale didattico, libri. Tra l'altro prossimamente presenteremo un'opera didattica molto interessante, ma non vi svelo niente per non essere troppo. Mentre passo subito la parola a Marino in regia per questa nuovissima puntata ricchissima di personaggi veramente interessanti. Non abbandonateci. Marino? Sì, Paolo, eccomi qui in regia. Puntata ricchissima, come dicevi, parleremo di cinema e televisione con le news, i soliti contributi musicali, con un gruppo molto interessante, IG Project, che ci presenta Pace e Veleno, un cortometraggio, The Jobless, di Alessandro Pultrone, molto simpatico, la storia di un disoccupato, poi la vedete, e poi tantissimi ospiti, perché avremo due importantissimi musicisti, il maestro Dejan Bogdanovic, violinista, e poi il pianista, il maestro Gabriele Maria Vianello. E poi parleremo di una chicca, di una cosa molto particolare, l'improvvisazione teatrale, questa nuova forma d'arte teatrale che sta emergendo, con Antonio Mariani della compagnia Extempore. Quindi, grande puntata. Paolo, a te la parola. Perfetto, grazie Marino, sempre puntuale e preciso. Come hai detto, partiamo subito e per il piacere, per gli occhi e per le orecchie dei nostri amici a casa, partiamo immediatamente con un graditissimo ritorno. Loro sono IG Project, come hai poc'anzi accennato. Pace Veleno è il titolo di questo lavoro. Il lavoro è un ottimo lavoro, molto interessante, perché accoppia a 12 brani musicali 12 videoclip, tra i quali quello che vedremo questa sera. E loro sono IG Project, Ivana Gatti e Gianni Maroccolo. Ce li vediamo, ritorniamo qui tra pochissimo. Ciao Allegher! Io serve pretendere, basta osservare che fai, il resto aspetterà. Come un amico nel bar, un lato arriva, combatte, riflette, quando un nemico cadrà. Io sono qui, tu non sei. Io sono qui, tu non sei. Io sono qui. Ci sarà il sole in calore, quel poco che muore, la testa protesterà. Stai cercando una scuola di musica che soddisfi le tue esigenze? International Music Institute. Corsi per tutti gli strumenti, laboratori di musica moderna, coro e orchestra per ogni età e livello. Percorsi didattici e piani di studio fatti su misura che potrai scegliere insieme a noi con l'aiuto di docenti qualificati. Telefona allo 06 88 457 88 o visita il nostro sito www.imionline.it per scoprire tutte le nostre sedi a Roma. International Music Institute. La musica che ti gira intorno. Iscriviti ai corsi di arte comica, teatro e cabaret dell'Accademia del Comico di Roma, di Max e Francesco Morini, per ridere, far ridere e vivere meglio. Telefona al 347-12-22-239, www.morinibros.it, Accademia del Comico di Roma. Il torchio sardo, tutti i sapori della Sardegna, dal pesce fresco al maialino, dalla ricotta al forno ai formaggi tipici, il tutto accompagnato da vini regionali selezionati, grappe e liquori. Il torchio sardo, ristorante e pizzeria, via Rigo d'Avila 8187, telefono 0678 57140. Il torchio sardo è a Roma. Eccoci qua di nuovo in studio, carta e penna come dice il mio amico Paolo, perché è il momento delle news. Questa è una news un po' particolare perché si tratta di una selezione per partecipare a un mediometraggio, quindi non un cortometraggio, qualcosa di più impegnativo, prodotto niente po' di meno che dalla CISL di Ravenna. E infatti è su idea di Giacomo Rovesi. Si sta realizzando questo mediometraggio sul disagio nel mondo del lavoro. Sono diversi i ruoli e le opportunità per gli attori. Se volete potete partecipare alla selezione scrivendo a movie skpmz.com, ma appaiono in sovrimpressione, quindi vi pregherei di ricopiare dal video. Ecco, Paolo, so e ti vedo insieme a due importantissimi ospiti, passerei la parola a te. Sì, io ti ringrazio e sono qui, ecco, se le immagini ci consentono e la regia ci fa questo regalo, apriamo questa parterre con due grandissimi. Io mi sento un po' emozionato in compagnia di questi due, non scherzo, due mostri, tra virgolette, della musica attuale che sono in circolazione. Il maestro Bogdanovic alla mia destra e il maestro Vianello alla mia sinistra, rispettivamente violinista e pianista. Allora, immediatamente io purtroppo, come al solito in Iceberg News, abbiamo i tempi così stretti che è impossibile citare e presentarvi in maniera adeguata. Io pregherei, visto che sei sicuramente un maestro della sintesi, di dire due parole su chi è il maestro Bogdanovic, cioè come è nata questa passione per il violino e come è riuscita ad arrivare ai templi del violinismo mondiale. Ti pregherei di guardare in camera, eccoli. Dan Bogdanovic è un artista che usa la musica e strumento di violino per esprimere quello che in realtà da ragazzino probabilmente anche non sapendo porto dentro. Breve, più breve di così. Questo è troppo breve. Cioè, no, stiamo parlando, forse lo sapete, con uno dei violinisti, insomma, uno dei tra i maggiori violinisti mondiali. E non scherziamo, non stiamo scherzando. Andate a informarvi. Perciò, effettivamente, come i grandi, estremamente semplice e umile. E questo ti dà grande merito. E il maestro Vianello, invece? Come nasce? Dove nasce? Io nasco figlio di musicisti. Il padre e la madre sono pianisti, entrambi. Mio fratello è violinista, e quindi entrare nell'arte è stato abbastanza automatico, diciamo così, usando un termine un po' brutto forse per la musica, però questo spirito dell'arte che entra nel sangue arriva dalla famiglia alla fine, oltre che... Certo, perciò un'educazione precoce, ascolto intrauterino, come direbbe Tomatis, che ha dato questa spinta. E naturalmente parliamo non solo di concertisti, ma anche di grandi didatti, tant'è vero che tutte e due insegnate ai massimi livelli, perciò conservatorio, giusto? Sì, Nel caso di Vianello, il Conservatorio di Trieste. Conservatorio Tartini di Trieste, sì. Esatto. Mentre nel caso di Bogdanovic, siamo a livelli di perfezionamento. Sì, esattamente. Quest'anno, per esempio, anche sono stato chiamato, come l'anno scorso, al Conservatorio di Pesaro per un masterclass. Però io in realtà anche una mia scuola con quale da anni seguo i miei allievi, violinisti anche di una certa fama che cercano di ampliare il suo programma e di perfezionarsi il più possibile. Certo, a me dispiace il fatto di non potervi farvi esibire, nel senso farvi anche o avere delle immagini, perché io ho visto di repertorio, perché veramente è un peccato, ma questo sicuramente i nostri amici da casa e tutti quelli che io vi invito veramente calorosamente ad andare, perché prossimamente c'è un vostro concerto molto molto prossimo e interessante, e se vuoi citare un attimo la data e il luogo. Ma in realtà bisogna solo dirlo che questo concerto, che sarebbe adesso l'11, domenica 11 novembre. Ecco, vediamo in sovrimpressione proprio sì, la che sarebbe la chiesa di San Paolo entro le mura, via Nazionale. In realtà è un concerto che riguarda promozione di nostro CD, che si chiama Virtuosismo e Meditazione. Che sarebbe un concerto che grossa parte andrà anche in beneficenza, soprattutto legato all'Associazione Nazionale Andos, Donne Operate al Seno, che in realtà maestro ed io da anni facciamo anche concerti a loro favore, e quindi questo nostro CD promozione in realtà non abbiamo avuto neanche ora di collegarlo di nuovo. Certo. con questa, bello, per questo scopo. E ulteriore merito alla musica e all'arte in favore del sociale, e questa è un'altra bellissima bellissima iniziativa che comunque i musicisti sentono, perché è una... Io volevo chiedere al maestro Vianello, visto che ce l'ho qui vicino da sinistra, una domanda. Il titolo di questo vostro lavoro discografico, come mai questo titolo molto accattivante, molto... Potrei dire che virtuosismo, sicuramente il violino è il principe del virtuosismo. Nel disco ci sono alcuni brani dove anche il pianoforte si rende virtuoso, specialmente in Liszt. E lo stupore è perché è nato da noi stessi, che fin dal primo momento che abbiamo suonato insieme ci siamo stupiti, si può dire, ci siamo stupiti della nostra bellissima intesa, che era proprio naturale, molto naturale. Bello, questo bello. È stato proprio forse il sintomo che ci ha generato questo titolo. E la meditazione? Com'è entrata a far parte del vostro background? Devo dire una cosa, che il fatto di suonare in duo è un fatto molto interessante, perché almeno in nostro caso è un frutto di un'amicizia. Un'amicizia tra due musicisti che si stanno molto bene anche da soli. Infatti Gabriele fa un solista affermato, che con la sua buona volontà ha accettato di creare e curare una formazione, in questo caso duo. E quindi quando ci sono due persone che da anni si occupano di se stessi, perché lo strumento ci obbliga di farlo, si viene a un certo punto dove la meditazione ormai non si fa da soli, si fa anche in due, e quindi viene molto più naturale. Bello, questo lavoro è edito da un'associazione a noi assai cara, perché lavora proprio, ha un parallelismo con l'Iceberg News, perciò queste le terre sommerse. Sì, sì. Noi lavoriamo sommersi. Esatto, noi lavoriamo molto e ci piace questa cosa. Ecco, tra l'altro vediamo proprio in sovrimpressione la copertina. Vorrei solo dirlo che sì. Con sì. Gentile concessione di mio padre, i quadri sono di mio padre. Ah, grandi. Esatto, infatti abbiamo accennato prima da dove proveniva l'arte, e in tutti i due casi i vostri, chiaramente è un difetto di famiglia. Sì, un errore genetico. Esatto, che bell'errore, per fortuna esistono questi errori. E se i nostri amici da casa volessero così avere un po' più di notizie su di voi, c'è qualche riferimento internettiano, qualche riferimento? Sì, quello che riguarda duo, ci sono riferimenti che riguardano il sito di Terre Sommerse. Quello che riguarda il mio specifico caso, esiste il mio sito www.deambogranic.com, quindi... Perciò chi volesse avere più notizie, e chi non conoscesse ancora, quindi pochi che non conoscessero ancora la tua arte, lo potrebbe così trovare sul sito. Ripetiamo, l'11 novembre... Un grande concerto, non solo, io vi invito non solo per gustare la maestria dei maestri Vianello e Bogdano, questo duo violino-pianoforte veramente eccezionale, e non lo dico per scoop televisivo, siamo veramente ai massimi livelli di virtuosismo e di meditazione, visto che ci siamo. Perciò 11 novembre, chiesa? San Paolo dentro le mura. Perfetto. O 18.30. Programma sarebbe due sonate, una di Gabriel Fauré, una di Richard Strauss, tra l'altro unica sua sonata che ha scritto. È un pezzo molto raro, che pochi sanno che esiste, che è Liszt Grand Duo Concertante, dove i violini e il pianoforte hanno, come ha detto il maestro, lo stessi livelli di virtuosismo, quindi è molto interessante. Certo. Perciò io non posso far altro che ringraziarvi per essere stati presenti qui in Iceberg News, nel nostro piccolo contenitore, ma insomma cerchiamo di dare voce alla grande arte. Piccola quella sopra, però grande quella sopra. Esatto, esatto. Io ringrazio e colgo appunto ancora l'occasione per invitarvi a questo concerto, e ricordo insomma che Terre Sommerse fa un gran bel lavoro per la grande arte sommersa, appunto. E grazie mille al maestro Vianello, grazie mille al maestro Bogdanovic, e passo la linea a Marino Midena, perché abbiamo da ascoltare il nostro prossimo ospite, ma non prima di avervi deliziato con altre immagini, perché sapete, parole sono immagini, perciò il corto Jobless, The Jobless, e perciò molto un tema veramente toccante e attuale in questo momento, e l'autore Alessandro Fultrone. Ci vediamo qui tra un po'. Zitto, non ti muovere. Dammi il portafoglio. Dammi questo cazzo di portafoglio. Con cosa? Abbassa una mano lentamente. Sorridi come se fossimo amici. Ecco, bravo, così. Guarda che non c'è niente nel portafoglio. Se non è niente, non perdi niente. Zitto. Proprio poveraccio come me dovevi beccare oggi. Non dire stronzate. Guarda che t'ho seguito. È uscito da un palazzo dove ci sono suoi uffici. Ma io ci sono andata a cercare un lavoro. Sono disoccupata. Pure tu. Che c'è nello zaino? Dei libri. Una giacca. Dammi la fede. No, non mi fare pistolate. Perché con mia moglie va già tutto male. Se torno a casa senza fede è un casino, guarda. Vabbè, lasciamo stare, vai. Lasciamo stare. Tieni. Grazie. Che non ti capisco. Pure io sono sposato. E ho anche un bambino. Poi la crisi, le solite cose come tanti. Mobilità, cassa integrazione. E tutti che ti guardano come se tu quei soldi li rubassi. Come se te la fossi cercata. Allora tanto vale. Che poi sai che cosa ci fai con quelle lire? A casa... Vabbè, lasciamo stare, va. E il governo, invece di darti lavoro, che fa? Ti fa fare i corsi. Per cosa? Che faccio, torno a scuola? Io c'ho bisogno. Guarda come mi sono ridotto. Pure pericoloso. Certo. Fallo di notte. Ma che? C'è troppa concorrenza. È ancora più pericoloso. Girano tanti matti, ma nessuno abbastanza da girare con soldi. No, ci ho provato. Ma adesso faccio il pomeriggio. E come dire? Così, così. Qualcosa ho fatto, ma bisogna accontentarsi. Oggi tu eri l'ultimo. E tu sei il primo. Davvero? Mi spiace che sia capitato tu. Sai una cosa? È che non sono d'accordo con te riguardante l'utilità dei corsi. E a me hanno insegnato a valorizzare me stesso, a prendere le occasioni. Non sapevo nemmeno come procurarmela la pistola. Mi hanno estradato verso il lavoro autonomo. Vabbè. Adesso devo andare. Niente di personale. In bocca al lupo. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06 93 54 7715. Per maggiori informazioni www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. Scuola di Cinema di Roma, corsi di formazione per il cinema e la televisione. Recitazione cinematografica, regia, ripresa, montaggio, produzione. Scuola di Cinema di Roma, per entrare nel magico mondo del cinema e della televisione. Scuola di Cinema di Roma, via Panisperna 101. Chiama allo 06 4815 676. Manda un'email a info@scuoladicinema.it. Oro, gioielli, argenti, orologi a prezzo di saldo? È possibile solo dai fabbricanti d'oro. L'oro e i gioielli ai prezzi più bassi. Una risposta contro la crisi del mercato. Qualche esempio? Orificeria a partire da 14,50 euro al grammo. Gioielleria da 16,50. I fabbricanti d'oro. Via Pinerolo 37 a San Giovanni è il primo e unico outlet dell'oro. Direttamente dalle fabbriche, senza passaggio intermedi. I fabbricanti d'oro. Via Pinerolo 37, Roma. Eccoci qua, di nuovo in studio. Avete visto questo cortometraggio molto simpatico? Un modo per trovare lavoro. Quindi fate i corsi voi disoccupati e poi andate in giro con la pistola. Chissà che qualcosa risolvete. Adesso però parleremo di una forma d'arte che trova sempre le soluzioni a qualsiasi tipo di problema. Diciamo questa formula magica. Parleremo di improvvisazione teatrale. Una forma che, di teatro che ci racconterà Antonio Mariani, che è il factotum, l'ideatore, la mente eccelsa di questa compagnia che sta crescendo tantissimo, che si chiama Ex Tempore e che fa tantissime cose. Antonio Mariani è qui accanto a me, lo vediamo. Antonio, ti volevo chiedere, che cos'è l'improvvisazione teatrale? Ah, bella domanda. Cioè, l'improvvisazione teatrale è un sacco di cose. Beh, prima di tutto è andare in scena senza un testo, questa è la sua caratteristica principale. E la domanda susseguente è perché? Beh, l'idea parte dal fatto che generalmente nelle rappresentazioni teatrali viene persa un sacco di roba, soprattutto tutta la parte di preparazione dello spettacolo, in cui la compagnia fa un larghissimo uso di improvvisazioni, ci sono momenti esilaranti, bellissimi, molto intensi, che poi vengono fissati in un prodotto finale. Ecco, noi facciamo vedere, tentiamo di far vedere, proprio quei momenti, diciamo, cioè vogliamo cogliere la spontaneità dell'atto teatrale nel momento del suo nascere. Questa è l'idea di fondo dell'improvvisazione teatrale. Poi naturalmente tantissime altre cose, gioco, è divertimento, per alcuni addirittura è terapia, nel senso che abbiamo avuto molti riscontri di persone che hanno tratto anche un giovamento personale proprio dal... Soprattutto è ricerca sul teatro e anche ricerca su di sé, perché no? Quindi è una forma di teatro che in qualche modo richiede una partecipazione diretta dell'attore, perché l'attore si deve mettere in qualche modo in gioco. Si deve mettere in gioco, direi totalmente, e si deve mettere in gioco anche come persona, oserei dire. Non ha tempo di pensare a ciò che va rappresentando e quindi... È molto complesso, molto complesso. E parlavamo di questa compagnia, io mi scuso con Antonio Mariani perché il tempo è tiranno, però approfitteremo quanto prima per averlo di nuovo in studio. So che hai degli appuntamenti molto vicini, perché il modo migliore per conoscere l'improvvisazione teatrale è andare a vedere uno spettacolo. Tu credo che mi puoi dire già due piccole date. Sì, abbiamo dunque il 26 siamo alla Tana di Tom Bombadil. No, permettimi, ti correggo, ce l'ho scritto, il 16 alla Tana di Tom Bombadil, sì, e il 26 al Thomas Book Bar di Via dei Sabelli. Sì. La Tana di Tom Bombadil è al quartiere Salario, comunque noi paghiamo pegno e ti invitiamo al più presto in modo che facciamo conoscere ancora meglio l'improvvisazione teatrale. Volentieri. Sì, è duopo, anzi io vi invito nell'angolo nostro, nella nostra scenografia, se volete venire, salutiamo immediatamente gli amici di Iceberg News con un grandissimo Allegher. Ciao, alla prossima settimana. Ciao.